Io ho compassione per quei fanciulli che i mercanti di schiavi adornano per ridurli ad oggetto di oltraggio. Non sono essi che si disonorano da sé, ma, o infelici, vengono costretti a imbellettarsi in vista di un turpe guadagno. Quanto a quelli che volontariamente scelgono di fare ciò, cose che se uno vi fosse costretto preferirebbe piuttosto essere condannato a morte, se almeno è un vero uomo, non sono forse da esecrare? Tale è il livello a cui è giunto ormai il modo di vivere. L'iniquità gode e si delizia, la lussuria si riversa sulle città e diventa legge. Nei lupanari, donne che mettono in vendita il proprio corpo come oggetto di sfrontata libidine, attorniano quegli uomini effeminati, e ragazzini a cui è stato insegnato a rinnegare la natura si fanno passare per donne. Il piacere ha stravolto tutto e la morbosità di un vivere fatto di mollezze ha disonorato l'essere umano. Questo piacere va alla ricerca di tutto, prova tutto, fa violenza a tutto, stravolge la natura. Gli uomini assumono il ruolo passivo delle donne e le donne si comportano da maschi, facendosi montare contro natura e accoppiandosi con donne. Nessun sentiero è inesplorato da questa dissolutezza. I piaceri carnali comuni a tutti loro diventano di pubblico dominio e la lussuria diviene cosa familiare e quotidiana. O spettacolo pietoso, o costumanza che lascia senza parole. La bandiera poi di questa vostra società dissoluta e il segno di condanna delle vostre opere sono le meretrici. Deh, che immensa anarchia! Non si accorgono neppure questi miserabili quante tragedie può provocare l'unirsi sessualmente con persone sconosciute. Spesso avviene che i padri, senza saperlo, si uniscano con il loro figlio che si prostituisce o con le loro figlie debosciate, non avendo più ricordo della prole che esposero. Così una lussuria senza più limiti rende i padri mariti. Ecco che cosa permettono le sapienti leggi. Danno alle persone la possibilità di peccare legalmente e chiamano libertà quelle che sono innominabili volontà. Coloro che adulterano la natura credono di essere esenti da adulterio e invece incombe su di loro la giustizia vendicatrice della loro temerarietà. Attirando contro di sé una sventura inesorabile, essi si acquistano a prezzo di poca moneta la morte. I diabolici trafficanti di questi carichi di meretrici traversano il mare portando una merce di prostituzione come se fosse frumento o vino. Altri, ancora assai più miserabili, comprano la lussuria come fosse pane o carne e non hanno presenti le parole di Mosè. Non profanerai tua figlia facendone una fornicatrice, perché la terra non diventi fornicatrice e la terra si riempia di iniquità. Così fu profetizzato nei tempi antichi e ora i risultati sono manifesti. Tutta la terra è ormai piena di fornicazione e di iniquità. Ammiro gli antichi legislatori romani. Odiavano tanto le pratiche effeminate da sanzionare la pena della fossa secondo la legge di giustizia per chi si fosse unito con il suo corpo ad una femmina contro la legge di natura. Ancora contro gli effeminati che si tagliano la barba e si radono. È dunque sacrilegio tagliarsi la barba, questa bellezza naturale e nobile. Cui cominciava a spuntare la barba, graziosissima giovinezza. Andando poi avanti con gli anni, l'uomo, lieto della sua barba, se la unge. Su di essa stillava l'unguento profetico del venerato Aronne. È quindi necessario che colui che riceve una buona educazione e nel quale la pace ha preso dimora, faccia pace anche con la sua barba. E le donne che corrono dietro alla lussuria, che cosa non faranno vedendo, come in uno specchio, gli uomini osare simili cose? Ma sarebbe da chiamarli non uomini, bensì piuttosto debosciati e femminucce. Perfino la loro voce è molliccia e i loro vestiti sono effeminati per la morbidezza e le tinte. e il loro contegno esteriore, l'abito, le calzature, il modo di comportarsi, di camminare, di tagliarsi i capelli e di guardare, che rivela chiaramente questi tali e li condanna. Al vederlo si riconoscerà l'uomo, dice la scrittura, si riconoscerà una persona incontrandola, poiché l'abbigliamento dell'uomo, i passi dei suoi piedi e il riso della sua bocca dichiarano come egli è. Coloro che hanno fatto guerra senza quartiere agli altri peli profondono poi tutta la loro cura ai capelli e manca poco che se li tengano legati con retine come fanno le donne. I leoni certamente sono fieri della loro criniera. La chioma serve loro da arma quando lottano. Anche i cinghiali si mostrano alteri con le setole e quando rizzano il pelo i cacciatori ne hanno timore. E così pure le pecore lanose sono appesantite dalle ciocche. E per metterle a servizio tuo, o uomo, che l'amorevole padre ha moltiplicato i loro peli insegnandoti a tosarne la lana. I popoli barbari, esempio di virilità e sobrietà. Tra i popoli pagani, i Celti e gli Sciti si lasciano crescere i capelli, ma non ne fanno oggetto di cura. Le lunghe chiome dei barbari hanno un che di spaventoso, e così rossastre sono come una minaccia di guerra. Questo colore, infatti, è affine al sangue. Ambo i suddetti popoli barbari hanno in odio la mollezza, ne è prova evidente per i Germani il reno e per gli Sciti il carro. Talvolta, infatti, lo Scita abbandona anche il carro, la cui grandezza pare al barbaro un segno di ricchezza, e rinunciando a questo lusso conduce una vita parca. Prende il suo cavallo, che per l'uomo Scita è sufficiente come propria casa, ed è anche più comodo per viverci che il carro, e salendogli in groppa si fa portare dove vuole. Se poi ha fame, chiede nutrimento al cavallo e questi gli porge le vene. L'unica cosa che possiede, il sangue, lo offre al suo padrone. Così per il nomade il cavallo è sia mezzo di trasporto che alimento. Quanto agli arabi, un altro popolo barbaro, quelli fra loro che hanno l'età di combattere cavalcano i cammelli. Essi stanno in groppa alle cammelle gravide, le quali allo stesso tempo pascono e trottano, portando su di sé i propri padroni insieme a tutto ciò che costituisce la loro casa. Se poi a questi barbari viene a mancare da bere, ne mungono il latte, e se anche questo alimento si esaurisce, esse non risparmiano neppure il loro sangue, come si dice che facciano i lupi rabbiosi. Le cammelle, più docili dei barbari stessi, non servono rancore se maltrattate, ma anzi percorrono con baldanza il deserto portando su di sé i loro padroni e nutrendoli. Periscano dunque le belve messe a custodia di questi animali che si nutrono di sangue. Neppure agli uomini, infatti, è lecito accostarsi al sangue, essendo il loro corpo null'altro che carne fertilizzata dal sangue. Il sangue umano è stato reso partecipe del Logos e comunica in spirito con la grazia. Chi gli fa torto non sfuggirà alla condanna. Anche privo di forma, esso è in grado di rivolgere la parola a Dio. Approvo però la semplicità di quei barbari. Amando uno stile di vita libero da impacci, essi hanno lasciato da parte il lusso. Tali ci invita ad essere il Signore, spogliati delle false bellezze, delle glorie vane e sottratti ai peccati, portando con noi solo il legno della vita, tenendoci stretti solo alla salvezza. Quali frequentazioni bisogna coltivare? Contro il gran numero di servitori e la dissolutezza delle matrone. Preso dall'ispirazione, ho divagato, trascurando il filo del discorso. Ora dunque bisogna ritornare al tema. Cominciamo col biasimare il gran numero dei servitori. E infatti, per evitare di fare le cose da sé e di servirsi da sé, che la gente ricorre ai domestici, comprandosi una folla consistente di cuochi, di camerieri e di abili tagliatori delle carni. La loro servitù è ripartita in diverse categorie. Gli uni faticano intorno alla golosità dei padroni come scalchi o raffinati cuochi, oppure preparano torte, dolci e creme, gli altri si occupano delle veste di ricambio, altri ancora sorvegliano gli oggetti d'oro come grifoni e altri custodiscono l'argenteria, detergono le coppe e dispongono bene ogni cosa per la tavola. Altri strigliano i giumenti e una gran turba di coppieri è all'opera intorno a questi signori, come pure greggi di avvenenti giovinetti, quasi fossero animali da cui quelli succhiano la bellezza. Parrucchieri e parrucchiere si affaccendano poi intorno alle donne, chi tiene gli specchi, chi le retine, chi i pettini. Vi sono anche molti eunuchi, a guisa di ruffiani, i quali, a motivo della garanzia che offrono di non poter godere i piaceri carnali, sono presi a servizio, senza destare sospetti, presso i signori che vogliono dedicarsi ai piaceri. Ma il vero eunuco non è quello che non può godere dei piaceri, ma quello che non vuole. Il Logos, dando la sua testimonianza per bocca del profeta Samuele contro i giudei prevaricatori, quando il popolo gli chiese un re, non promise loro un sovrano benigno, bensì minacciò loro un tiranno dispotico e lussurioso, il quale, dice, prenderà le vostre figlie per farne profumiere, cuoche e fornaie, e terrà il potere con legge di guerra, senza darsi pensiero di governare pacificamente. Nelle case dei signori, inoltre, vi sono anche molti celti che sollevano in alto le lettighe delle donne e le portano sulle spalle. Quanto ai lavori della lana, di filatura e di tessitura, a un gineceo laborioso e alla cura della casa, non ve ne traccia. Quei mistificatori delle donne passano con loro le giornate intere, narrando di continuo racconti erotici e logorandole così nel corpo e nell'anima con le loro opere e parole ingannatrici. Dice la scrittura: non starai con i molti per fare il male e non ti associerai alla moltitudine, poiché la sapienza è nei pochi, mentre nella moltitudine si rivela la confusione. Ora, quelle donne si comprano dei portatori non per l'onesto riserbo di volersi celare agli occhi altrui. Sarebbe certo auspicabile se con questa disposizione d'animo si coprissero in tal modo, ma è invece per voluttuoso lusso e per arroganza che si fanno portare a spalle, spasimando di pavoneggiarsi in pubblico. Sollevando le cortine della lettiga, si guardano avidamente intorno per adocchiare quelli che le osservano, e con ciò già tradiscono quale sia la loro disposizione d'animo. Spesso poi si sporgono addirittura in fuori, calpestando a terra così, con questo pericoloso curiosare, il loro apparente riserbo. Non guardarti intorno per le vie della città, dice la scrittura, e non vagare nelle sue strade deserte. E in verità è un luogo deserto anche quello dove, pur essendovi una folla di libertini, non vi è però un uomo assennato. Si fanno portare in giro per i santuari queste donne, fanno sacrifici, consultano oracoli, si accodano ogni dì alle torme degli indovini, dei ciarlatani di Cibele e delle vecchiette parassite iettatrici di case, ascoltano i bisbiglii di incantesimi che le vecchie fanno sui calici e apprendono dai maghi ciurmatori anche a fare pozioni e a pronunciare formule per mandare in rovina i matrimoni. Esse hanno alcuni uomini, ma ne sognano altri e gli indovini ne promettono loro altri ancora. Non si rendono conto di essere ingannate e di dare se stesse come strumento di piacere a quelli che vogliono fornicare. Offrendo la propria castità in cambio di una vergognosa umiliazione, credono di aver concluso un grande affare con questa ignominiosa corruzione. Molti poi sono quelli che si mettono a servizio della loro dissolutezza da prostitute. Uno si insinua da una parte e l'altro dall'altra. Sono libertini, attratti dalla lussuria, come i porci che amano sguazzare nel fango. Per questo, con estremo vigore, la scrittura esorta: non portare a casa tua chi che sia, poiché molte sono le trappole tese dall'ingannatore. E altrove: tuoi commensali siano uomini retti e il tuo vanto sarà nel timore del Signore. Al diavolo la fornicazione. Sappiatelo bene, dice l'Apostolo. Ogni fornicatore, impudico, avido, cioè idolatra, non avrà parte all'eredità nel regno di Cristo Dio. Esse, al contrario, si dilettano della compagnia di uomini effeminati. Nelle loro case irrompono turbe di debosciati senza freni alla lingua, impuri nel corpo e nella parola, vigili solo quando si tratta di fare servizi osceni, ministri di adulterio che sogghignano e bisbigliano parole all'orecchie e producono con il naso, senza ritegno, rumori di lussuria e volgarità per eccitare la libidine, cercando di piacere con parole e atteggiamenti lascivi e suscitando il riso come preludio della fornicazione. Talvolta poi costoro, o i debosciati stessi, o quelli che si mettono ad imitare a loro rovina la folla dei dissoluti, infiammatesi di collera per un motivo qualunque, emettono con il naso un rumore simile a quello delle rane, come se avessero la bile nelle narici. Contro le donne che hanno il vezzo degli animali da appartamento. Quelle poi, un po' più raffinate di costoro, allevano uccelli dell'India o pavoni della media, si sdraiano a giocare con questi animali dalla testa appuntita e si dilettano a vedere mostri che danzano al suono della sicinnide. Quando sentono parlare di tersite, ridono, ma esse stesse si comprano costosi tersiti, peso della terra, ed è di questi che poi si vantano, non dei loro legittimi mariti. Disdegnano di accudire una casta vedova che pure forse ha più valore di un cagnetto maltese. Trascurano un vecchietto onesto, ben più degno, direi, di questi mostriciattoli comperati con denaro. Non fanno avvicinare a sé l'orfanello, ma allevano pappagalli e gazze. Espongono i bambini partoriti da loro, ma raccolgono i piccoli degli uccelli. Hanno dunque deciso di dare la preferenza a esseri irrazionali piuttosto che a persone dotate di ragione, quando invece dovrebbero piuttosto prendersi cura dei vecchi che parlano di saggezza, più belli in volto, mi sembra, delle scimmie e capaci di dire qualcosa di più elevato degli usignoli. Quanto avete fatto a uno di questi piccoli, lo avete fatto a me, dice il Signore. Esse invece hanno preferito la grettezza alla saggezza, pietrificando le loro sostanze in perle e smeraldi indiani. Sperperano e dilapidano i loro beni per avere tinture effimere e schiavi comprati. Come le galline, quando sono sazie, così esse razzolano tra i rifiuti della vita. La povertà, dice la Scrittura, rende meschino l'uomo. Per povertà intende la tirchieria, quella che rende i ricchi poveri di generosità, come se non possedessero nulla.